Terza traccia. Quei teneri occhi azzurri e quelle grazie naturali non dovevano essere sciupati con la scadente società di Ivory e le sue relazioni. Le conoscenze che essa aveva già fatto erano indegne di lei. Gli amici da cui si era separata pochi momenti prima, benché gente assai buona, dovevano farle del male. Si trattava d'una famiglia Martin di cui Emma sapeva per sentito dire che aveva preso in affitto una gran fattoria di Mr. Knightley, risiedendo con ottima reputazione, credeva, nella parrocchia di Donwell. E le era noto che Mr. Knightley ne aveva molta stima. Ma dovevano essere persone rozze e incolte, inadattissime come amici intimi d'una ragazza a cui non mancava che un po' di istruzione ed eleganza per essere proprio perfetta. Lei l'avrebbe circondata di premure, lei l'avrebbe migliorata, l'avrebbe distaccata dalle sue cattive amicizie, e l'avrebbe introdotta nella buona società, avrebbe formato le sue opinioni e le sue maniere. Sarebbe stata un'impresa interessante e certo molto buona, in sommo grado consona alla sua posizione e al suo tempo libero e alle sue capacità. Era così intenta ad ammirare quegli occhi azzurri, a parlare e ad ascoltare, e a formare tutti quei progetti negli intervalli, che la serata volò via con insolita rapidità. E la tavola della cena, che sempre concludeva tale riunione, della quale essa era stata solita aspettare con impazienza il momento, era belle apparecchiata e accostata al focolare, prima che lei se ne rendesse conto. Con una alacrità che andava oltre al comune impulso di uno spirito che pur non era mai indifferente al merito di fare ogni cosa bene e a modo, col reale zelo d'una mente che si compiaceva delle proprie idee, ella fece allora tutti gli onori della cena e servì e raccomandò il pollo tritato e le ostriche panate, con un'insistenza che sapeva sarebbe riuscita accetta alle ore non inoltrate e agli scrupoli cerimoniosi dei suoi ospiti. In tali occasioni i sentimenti del povero Mr. Woodhouse erano in preda a un triste conflitto. Gli piaceva di vedere stesa la tovaglia, perché tale era stata la moda della sua giovinezza. Ma d'altronde il suo convincimento circa la totale insalubrità delle cene lo riempiva d'afflizione anziché no a vedervi porre sopra qualcosa. E mentre il suo senso d'ospitalità avrebbe desiderato che i suoi visitatori facessero onore a ogni portata, la sua sollecitudine per la loro salute gli rendeva penoso che essi mangiassero. Una piccola scodella di pappa d'orzo, diluita come la sua, era tutto quel che in coscienza egli poteva raccomandare, sebbene potesse sforzarsi a dire mentre le signore facevano piazza pulita delle cose più ghiotte. Mrs. Bates, vi consiglierei d'arrischiarvi con una di queste uova. Un uovo bollito morbido non è insalubre. Searle sa bollire un uovo meglio di chiunque. Non raccomanderei un uovo bollito da un'altra persona, ma non dovete aver timore. Sono così piccine, vedete? Uno dei nostri ovetti non può farvi male. Miss Bates, permettete che Emma vi dia un pezzettino di torta, un pezzetto piccolo piccolo. Le nostre sono tutte torte di mele. Con noi non dovete aver paura di conserve indigeste. Non vi raccomando la crema. Mrs. Goddard, che direste d'un mezzo bicchiere di vino? Un mezzo bicchierino in un bicchiere d'acqua? non credo che vi riuscirebbe pesante. Emma lasciava che il padre dicesse, ma serviva i visitatori in uno stile molto più soddisfacente e quella sera provò un gusto particolare a mandarli via contenti. La contentezza di Miss Smith fu proprio quale essa si era ripromessa. Miss Woodhouse era una persona così importante a Highbury che la prospettiva di venirle presentata aveva causato non meno panico che piacere, ma l'umile e grata giovinetta se ne andò via con l'animo indicibilmente pago, incantata dell'affabilità con la quale Miss Woodhouse l'aveva trattata tutta la sera e alla fine le aveva persino stretto la mano. L'intimità di Harriet Smith a Harfield fu presto cosa fatta. Pronta e decisa nei modi, Emma non perse tempo nell'invitarla, nell'incoraggiarla e nel dirle di tornare sovente. E come cresceva la loro conoscenza, così aumentava la soddisfazione che esse provavano l'una per l'altra. Come compagna di passeggiate, Emma aveva subito previsto quanto avrebbe potuto trovarla utile. A questo riguardo, la perdita di Mrs. Weston era stata notevole. Il padre di Emma non andava mai di là del vivaio, dove due partizioni del terreno gli bastavano per la sua passeggiata lunga o per quella breve, a seconda della stagione. Sicché, dopo il matrimonio di Mrs. Weston, Emma aveva fatto troppo poco moto. Una volta si era avventurata da solo fino a Randalls, ma non era piacevole. Perciò una Harriet Smith, una che essa avrebbe potuto quando che sia invitare a fare una passeggiata, avrebbe costituito un'apprezzabile aggiunta ai suoi privilegi. Ma sotto ogni rispetto, più la vedeva e più la stimava, e si rafforzava nei suoi benevoli disegni. Harriet non era certo d'ingegno vivace, ma possedeva un'indole dolce, docile e riconoscente. Era affatto libera da presunzione e desiderava soltanto di essere guidata da chiunque avesse un ascendente su di lei. La prontezza con la quale si era affezionata a Emma era molto simpatica e la sua inclinazione per la buona compagnia, la sua capacità di apprezzare ciò che era elegante e ingegnoso, mostravano che non mancava di gusto, sebbene non ci si potesse aspettare da lei robustezza d'intelligenza. Insomma, essa si era persuasa che Harriet Smith era esattamente la giovane amica che le ci voleva, esattamente quel certo che è necessario alla sua felicità domestica. Un'amica come Mrs. Weston era fuori questione. Non c'era da aspettarsene una seconda, né essa l'avrebbe desiderato. Si trattava di cosa ben diversa, d'un sentimento distinto e indipendente. Mrs. Weston era oggetto di una considerazione che aveva la sua base nella gratitudine e nella stima. Harriet sarebbe stata amata come una persona a cui essa poteva riuscire utile. Non c'era nulla da fare per Mrs. Weston, per Harriet c'era da far tutto. I suoi primi tentativi di rendersi utile furono diretti a scoprire chi fossero i genitori, ma Harriet non lo sapeva. Era pronta a dir tutto quel che poteva, ma su questo punto le domande erano vane. Emma era ridotta a immaginare quel che le piaceva, ma non poteva mai credere che, ove si fosse trovata nella stessa situazione, essa non sarebbe riuscita a scoprire la verità. Harriet mancava di penetrazione. era rimasta paga di sentire e di credere, né più né meno di quanto era parso a Mrs. Goddard di dirle, e non aveva investigato oltre. Mrs. Goddard e le insegnanti e le educande e in genere gli affari della scuola formavano, com'è naturale, gran parte della sua conversazione. E non fosse stato per la sua amicizia coi Martin della fattoria del mulino dell'abbazia, sarebbe stato tutto. Ma i Martin occupavano parecchio i suoi pensieri. Aveva passato da loro 2 mesi felici e ora non si stancava di discorrere dei piaceri della sua visita e di descrivere le molte comodità e meraviglie del posto. Emma incoraggiava la sua loquacità divertendosi di tal descrizione d'una categoria di esseri diversi. E, godendo della ingenuità giovanile che poteva parlare con tanta esultanza dei 2 salotti di Mrs. Martin, 2 bellissimi salotti davvero, uno grande proprio quanto quello di Mrs. Goddard, e della prima cameriera di Mrs. Martin, che aveva vissuto 25 anni con lei, e delle sue 8 vacche, 2 della razza Alderney e una piccola vacca gallese, tanto carina, alla quale essa era così affezionata che Mrs. Martin aveva detto che la si doveva chiamare la sua vacca. E del bel padiglione che avevano in giardino, dove un giorno o l'altro dell'anno seguente avrebbero tutti preso il tè. Un gran bel padiglione, capace di contenere 12 di persone. Per qualche tempo Emma si divertì, senza rifletterci più che tanto. Ma come venne a conoscer meglio di che famiglia si trattava, nacquero altri sentimenti. Essa si era fatta un'idea sbagliata, immaginando che si trattasse di madre e figlia, d'un figlio e della moglie di costui, che abitavano tutti insieme. Ma quando risultò che Mr. Martin, che aveva una parte nella narrazione ed era sempre nominato con elogio per il suo gran buon carattere nel far questo o quello, era uno scapolo, che non c'era una giovane Mrs. Martin, nessuna moglie, sospettò che vi fosse un pericolo per la sua piccola amica in tutta questa ospitalità e cortesia, e che, se non la si teneva d'occhio, le sarebbe stato richiesto di lasciarsi cadere in basso per sempre. Con questa idea a ispirarla, le sue domande crebbero di numero e di significato, e in modo particolare essa condusse Harriet a parlare di più di Mr. Martin ed evidentemente a lei non dispiaceva. Harriet non si fece chiedere 2 volte di parlare della parte che egli aveva avuta nelle loro passeggiate al chiaro di luna e nei lieti giochi serali, e si indugiava assai a illustrare il suo buon carattere e la sua cortesia. Un giorno aveva fatto un giro di 3 miglia per portarle delle noci, perché lei aveva detto che le piacevano tanto, e in ogni altra cosa era così servizievole. Una sera aveva fatto venire nel salotto il figlio del suo pastore proprio per cantare per lei. Il canto le piaceva immensamente. Lui stesso sapeva cantare un po'. Essa lo credeva molto bravo e capace di capir tutto. Aveva un bellissimo gregge e, nel tempo che era rimasta con loro, gli era stato offerto per la sua lana più che a qualunque altro del paese. Credeva che tutti parlassero bene di lui. La madre e le sorelle gli erano molto affezionate. Mrs. Martin le aveva detto un giorno, e arrossiva ripetendolo, che era impossibile avere un figlio migliore, e perciò era sicura che sposandosi sarebbe riuscito un marito eccellente. Non che lei desiderasse di vederlo prender moglie, non aveva nessuna premura. «Brava Mrs. Martin», pensò Emma, «sapete il fatto vostro». E quando essa era venuta via, Mrs. Martin era stata tanto gentile da mandare una bellissima oca a Mrs. Goddard, la più bell'oca che Mrs. Goddard avesse mai visto. Mrs. Goddard l'aveva cucinata una domenica e aveva invitato a cena tutte e tre le insegnanti, Miss Nash, Miss Prince e Miss Richardson. Mr. Martin suppongo che non ha altre nozioni che quelle del suo mestiere. Non legge? Oh, sicuro, cioè, no, non lo so, ma credo che abbia letto un bel po', ma non cose di cui fareste conto. Legge le relazioni agricole e qualche altro libro che si trova sotto il sedile di una finestra, ma se li legge tutti da sé. Ma talora la sera, prima di metterci a giocare a carte, soleva leggere ad alta voce qualcuno dei brani eleganti, molto divertente. E so che ha letto il Vicario di Wakefield. Non aveva letto mai il romanzo della foresta o i bambini della badia. Non aveva mai sentito nominare tali libri prima che gliene parlassi io. Ma ora è deciso a procurarseli appena può. La domanda seguente fu: che aspetto ha Mr. Martin? Oh, non è un bell'uomo, tutt'altro. Da principio mi parve molto brutto, ma adesso non mi sembra più tale. Dopo qualche tempo, sapete, succede così. Ma non l'avete veduto mai? Di tanto in tanto capita Highbury e non manca mai di passarci a cavallo ogni settimana quando si reca a Kingston. Vi è passato davanti parecchie volte. Può essere, e magari l'avrò visto una cinquantina di volte, ma senza avere idea di come si chiamasse. Un giovane agricoltore, a cavallo o a piedi, è proprio l'ultima specie di persona che possa eccitare la mia curiosità. I coltivatori sono precisamente la classe di gente con la quale sento di non poter aver nulla a che fare. Un gradino o due più basso e un aspetto degno può interessarmi. Potrei sperare di riuscire utile alle loro famiglie in un modo o nell'altro. Ma un agricoltore non può aver bisogno del mio aiuto e perciò, in un senso, è tanto al di sopra della mia attenzione quando lo è al di sotto in ogni altro. Certo, già, non è probabile che l'abbiate mai osservato, ma lui vi conosce proprio bene, voglio dire di vista. Non dubito che egli sia un giovanotto per bene, anzi, mi risulta che lo è. E come tale gli desidero ogni prosperità. Che età immaginate che abbia? L'8 giugno scorso aveva 24 anni e il mio giorno di nascita è il 23. Proprio 15 giorni di differenza. Che è strano davvero. Solo 24 anni. È troppo giovane per accasarsi. Sua madre ha perfettamente ragione di non aver premura. Sembrano star benissimo come sono, e se essa dovesse darsi da fare per trovargli moglie, probabilmente se ne pentirebbe. Di qui a 6 anni, se potesse incontrarsi con una buona ragazza della sua stessa condizione, con un po' di denaro, potrebbe essere una cosa molto desiderabile. Di qui a 6 anni... cara Miss Woodhouse, avrebbe 30 anni. Ebbene, Non prima di quell'età possono permettersi di sposarsi la maggior parte degli uomini che non vivono di rendita. Mr. Martin, m'immagino, ha ancora da farsi di sana pianta un patrimonio, sicché non può non essere in anticipo sugli altri. Qualunque somma di denaro possa ereditare alla morte di suo padre, quale che sia la sua parte nel patrimonio della famiglia, è, presumo, tutta in circolazione, tutta investita nelle sue scorte, via dicendo. E sebbene a forza di diligenza e di buona fortuna egli possa essere ricco col tempo, è pressoché impossibile che abbia ancora messo insieme qualcosa. Di certo è così, ma vivono molto comodamente. Non hanno un servo per la casa. Del resto non manca loro nulla. E Mrs. Martin parla di prendere un ragazzo un altro anno. Mi auguro che non abbiate da trovarvi nell'imbarazzo, Harriet, quando finirà per sposarsi. Voglio dire, per dover fare la conoscenza della moglie. Poiché, sebbene le sorelle, per via di un'educazione superiore, non debbano interamente incontrare disapprovazione, non ne segue che egli possa sposare qualcuna con la quale vi convenga avere rapporti. La disgrazia della vostra nascita dovrebbe rendervi particolarmente guardinga circa le persone con cui stringere amicizia. Non vi può essere dubbio che voi siate la figlia di un gentiluomo e dovete sostenere la vostra pretesa codesta posizione con ogni mezzo in vostro potere. O ci sarà un'infinità di gente a cui piacerebbe abbassarvi. Certo, sì, penso che ve ne sia, ma mentre io fo visita a Hartfield e voi siete così buona con me, Miss Woodhouse, non ho paura di ciò che può fare la gente. Voi comprendete assai bene, Harriet, la forza dell'ambiente, ma vorrei vedervi stabilita nella buona società, in modo così saldo da essere indipendente perfino da Hartfield e da Miss Woodhouse. Voglio vedervi stringere buone relazioni, in modo duraturo, e a tale scopo sarà consigliabile che abbiate quante meno conoscenze difformi potrete. E perciò dico che se doveste essere ancora da queste parti quando si sposa Mr. Martin, desidererei che dall'intimità con le sue sorelle non foste tratta a fare la conoscenza di sua moglie, che probabilmente non sarà che la figlia di qualche semplice agricoltore senza educazione. Certo, sì. Non che io creda che Mr. Martin sposerebbe una che non abbia avuto qualche istruzione o sia stata educata come si deve. Però non intendo mica di mettere la mia opinione contro la vostra e son certa che non desidererò di conoscere sua moglie. Avrò sempre una gran considerazione per le signorine Martin, specialmente per Elizabeth. E mi spiacerebbe assai di rinunziare ad esse, perché non sono meno bene educate di me. Ma se lui sposa una donna molto ignorante e volgare, certo sarebbe meglio che io non andassi a farle visita, se mi riesce. Emma l'osservava durante gli ondeggiamenti di questo discorso e non vi scoprì sintomi allarmanti d'amore. Il giovanotto era stato il primo ammiratore, ma essa confidava che non vi fosse altro attaccamento e che da parte di Erie non vi sarebbe stata seria difficoltà contro una sua propria amichevole sistemazione. Incontrarono Mr. Martin proprio il giorno dopo, mentre passeggiavano per la strada di Donwell. Egli andava a piedi, e dopo aver rivolto a Emma uno sguardo rispettoso, guardò la sua compagna con la più schietta soddisfazione. A Emma non dispiacque di avere questa opportunità di esame, e avanzando di pochi metri, mentre Harriet e Mr. Martin parlavano insieme, ben presto, col suo occhio pronto, poté sufficientemente farsi un'idea del giovanotto. Il suo aspetto era molto lindo ed egli pareva un giovane giudizioso, ma la sua persona non aveva altri vantaggi. E quando lo si fosse messo a confronto con dei signori, Emma pensò che egli avrebbe perduto tutto il terreno che aveva guadagnato nella simpatia di Harriet. Harriet era suscettibile alle creanze. Spontaneamente aveva osservato la gentilezza del padre di Emma con ammirazione mista a meraviglia. Mr. Martin aveva l'aspetto di uno che non conoscesse che cosa fossero le belle creanze. Non rimasero insieme che pochi minuti, poiché Miss Woodhouse non doveva essere fatta attendere. E allora Harriet venne verso di lei correndo con volto sorridente e piena di un'agitazione che Miss Woodhouse sperava di calmare prontamente. Pensate, capitar proprio di imbatterci in lui, com'è strano. È stato proprio un caso, ha detto, che egli non abbia girato per Randalls. Non credeva che passassimo mai per questa strada. Credeva che di solito passeggiassimo in direzione di Randalls. Non gli è ancora riuscito di procurarsi il romanzo della foresta. Aveva tanto da fare l'ultima volta che è stato a Kingston che se l'è dimenticato, ma ci torna domani. Com'è strano che ci sia capitato di incontrarlo. Ebbene, Miss Woodhouse, è come ve lo immaginavate? Che pensate di lui? Vi sembra proprio brutto? È brutto assai, non c'è dubbio, brutto parecchio. Ma questo è nulla rispetto alla sua completa mancanza di signorilità. Non avevo diritto di aspettarmi molto, e molto non mi aspettavo, ma non avevo idea che potesse essere così zotico, così completamente privo di distinzione. Me l'ero immaginato, debbo confessarlo, un grado o due più vicino ai modi distinti. Certo, disse Harriet in modo mortificato, non è signorile quanto un vero signore. Credo, Harriet, che dal momento che avete fatto la nostra conoscenza siete stata più volte in compagnia di alcuni signori, di quelli così veri, che voi stessa dobbiate essere stata colpita dalla differenza con Mr. Martin. A Hartfield avete visto eccellenti esempi di uomini istruiti e di bei modi. Sarei sorpresa se, dopo averli veduti, poteste di nuovo trovarvi in compagnia di Mr. Martin senza accorgervi che egli è un essere molto inferiore, anzi, senza rimaner sorpresa di averlo mai trovato simpatico prima. Cominciate a sentirlo adesso? Non siete rimasta colpita? Son certa che dovete essere rimasta colpita dal suo aspetto goffo e dai suoi modi bruschi e dalla rozzezza della sua voce, che alla distanza a cui mi trovavo sentivo che era affatto priva di modulazione. Certo, lui non rassomiglia a Mr. Knightley, non ha l'aria così distinta e un modo di camminare come Mr. Knightley. La differenza mi pare abbastanza evidente. Ma Mr. Knightley è un uomo così elegante? Mr. Knightley ha un'aria così indiscutibilmente superiore che non è giusto paragonare Mr. Martin con lui. Non ne trovereste uno su 100 con signore così chiaramente scritto in fronte come Mr. Knightley. Ma egli non è il solo signore che voi abbiate avvicinato negli ultimi tempi. Che ne dite di Mr. Weston e di Mr. Elton? Paragonate Mr. Martin con l'uno o con l'altro. Paragonate il loro portamento, il loro modo di camminare, di parlare, di tacere. Dovete scorgere la differenza.